Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non so quanto costassero i biglietti di Milan-Barcellona, però mi pare che sia il gol di Boateng che l'assist di Messi per il terzo gol di Xavi da soli valessero il prezzo del biglietto, cioè sia l'uno che l'altro. E quindi se pensiamo a tutto il resto che si è visto, in particolare nel primo tempo, mi pare che chi ha investito su Milan-Barça facendo magari anche un po' di fatica a trovare i biglietti, davvero i suoi soldi per una volta non li ha buttati. Qualche commento a caldo da San Siro, cominciando da Guardiola. Felici perché venire qua a San Siro a giocare contro il Milan con questa bellissima squadra e fare questa prestazione mica facile. Dopo aver vinto tanto, abbiamo parlato, se ancora abbiamo la voglia di lottare semplicemente per essere il primo del gruppo, secondo me l'ho fatto, siamo contenti e per sempre venire un piacere giocare in questo stadio, soprattutto contro il Milan che è la squadra una delle più titolate del mondo, che io ho cresciuto vedendo grande Milan di Sacchi, di Capello, quindi per me venire qua e fare una prestazione nella nostra squadra, venire a giocare come quasi sempre, con tre dietro, con tanta gente in centro del campo per tenere palla, abbiamo fatto tante palle gol, quindi siamo contenti. Loro hanno anche avuto opportunità, ma non possiamo aspettare che il Milan non ci crei dei problemi nel suo stadio. Effettivamente questo modulo del Barcellona di ieri sera, che poi insomma, ogni volta cambia, ormai ne ha una certa, cioè è la squadra probabilmente più duttile oggi al mondo, al di là del valore assoluto, è stato coraggioso, interessante per una certa parte del primo tempo, anche vagamente incosciente, però a gioco lungo l'ha avuta vinta, perché quell'uomo in meno schierato in retrovia è diventato un uomo in più aggiunto alla fase offensiva e quindi hanno avuto ragione loro, non soltanto nel risultato come spesso succede, ma anche proprio nel modo di interpretare la partita, nel come questa vittoria è maturata. Mi pare poco da rimproverarsi il Milan, se non quel calo indubbiamente nel finale, ma che io credo abbia due spiegazioni. Una è che rincorrere il Barcellona correndo tanto a vuoto, perché fatalmente corri tanto a vuoto, non sia un toccasana, no? per una crescita nel finale, anzi ti costringa ad accusare a un certo punto la fatica e a calare. E l'altra ragione è che proprio nel momento in cui, dopo quella meraviglia di Boateng, il Milan si era illuso, aveva pensato di potercela ancora fare, perché il Milan doveva vincere, ricordo, non gli bastava il pareggio per provare ad arrivare primo nel girone, è arrivata la gemma dell'assist di Messi, colpo, lo so che è un'immagine un po' abusata, ma insomma se non è un colpo da biliardo quello, c'erano tutti gli ometti, c'erano almeno tre ometti rossoneri piazzati, la palla poteva passare in un punto solo a patto di avere quella velocità particolare, perché l'inserimento di Xavi non contemplava altre possibilità. Beh, naturalmente la palla è arrivata lì. Il fatto di aver preso quel gol in quella fase, in quel momento della partita, credo sia stato un'altra delle ragioni che hanno spento le velleità del Milan e che hanno ridotto il finale, i 15-20 minuti finali, in effetti a una fase di partita non degna di quella che era stata invece fino ad allora, e in particolare nella fase centrale del primo tempo. Allegri. Abbiamo fatto anche delle buone cose, cercando di giocare a viso aperto contro questa squadra, soprattutto per capire a che livello siamo e fare una prestazione diversa da quella che avevamo fatto a Barcellona. Credo che usciamo da questa partita sconfitti e questo dispiace, forse anche meritatamente, però con un'autostima migliore, sicuramente maggiore di quella che avevamo magari prima della partita, perché c'era sempre il timore forse di andare a fare una partita come contro Barcellona, fatta a Barcellona. E questo era il commento di Allegri. Ne seguiranno molti altri, ma stavolta saranno i vostri, all'800240024, subito dopo aver messo a fuoco la situazione dei vari gironi con l'aiuto di Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Senti, aggiorniamo questa situazione, perché a un turno dalla fine c'è ancora molto da decidere, mi pare. Tantissimo, e tra l'altro questa giornata e questo periodo ha messo in luce alcune cose. Intanto che le inglesi sono in grossa difficoltà, che il Manchester United, il Chelsea e ancor più il Manchester City rischiano di stare fuori. Per carità, non succederà a tutte e tre, ma il rischio che le inglesi possano star fuori almeno in una o due è forte, e già questa è una grande novità rispetto al passato. Il Manchester United si è fatto davvero male in casa, con un'autorete, con un paio di cose davvero sciagurate, e adesso si gioca tutto contro il Basilea. Se lo gioca in trasferta, se lo gioca dopo aver pareggiato in casa col Basilea, e se lo gioca contro una squadra che, per carità, è inferiore, ma non anni luce come potrebbe sembrare dal blasone delle due squadre. Sicché, per quanto riguarda la situazione dei gruppi, diciamo questo, che solo il Real Madrid per il momento è a punteggio pieno, e la vittoria contro la Dinamo Zagabria è stata tratti imbarazzante. Nel girone C il Benfica e il Manchester United hanno 9 punti, il Basilea ne ha 8, il Benfica di fatto è passato, e il Manchester United ovviamente non deve perdere. Sì. Deve perdere contro il Basilea per passare il turno. Ripeto, non è un'eventualità impossibile, però, la caratura internazionale, però il Basilea ha comunque qualche arma, e già all'andata ha fatto una grande paura al Manchester, perché finì 3-3 e il Manchester si è preso un grande spavento. La situazione è molto complicata, a parere mio, quella del Chelsea, perché il Chelsea gioca contro il Valencia, d'accordo, gioca in casa, però qui c'è una combinazione particolare, cioè nel senso che se finisce 0-0 passa il Chelsea, se finisce 1-1 passa il Valencia, perché il primo discrimine sono gli scontri diretti. In caso di parità di scontri diretti, il discrimine sono il numero di gol segnati in trasferta, e quindi se facesse un gol in trasferta il Valencia passerebbe. Il Chelsea è in gravissima difficoltà, perché il campionato è a meno 12 al Manchester City, è una squadra che prende un sacco di gol nell'ultima partita, ne ha presi davvero tantissimi, ed è una squadra, io tra l'altro vado sempre a guardare anche le pagelle per quello che valgono, a volte valgono, ma ad esempio ieri sera la squadra in difesa non è stata bocciata, cioè ha preso 5.5 soltanto Ivanovic, e questo significa che è il centrocampo che ha dei problemi, quindi perde troppi palloni su linea di mediana. Domenica ha preso un gol pazzesco con Maxi Rodriguez su un errore di Obi Mikel, e questo significa che il lavoro di Village Boas è un lavoro complicato. Ha recuperato Drogba, ma ha riperso Torres di fatto da un punto di vista psicologico, e io onestamente non so se questo Chelsea oggi sarebbe fuori anche dalle coppe come classifica di Premier League. Non so se in una partita secca in questo momento il Chelsea abbia le forze psicologiche per reggere, per passare il turno. 50 gol in questo quinto turno, che è stato di gran lunga, mi fa notare Franco Piantanida, il più prolifico di stagione, quasi sì. Vicino ai 53 gol della quarta giornata dell'altro anno, che insomma erano stati un primato. 17 gol su 50, ne sono 3 spagnole, no? 7 il Valencia, 6 il Reale e 3 il Barcellona. Sì, come sempre tanti gol, tante prodezze che, come dire, vanno condivise un po' con i portieri e con la difesa, però insomma, a cominciare da San Siro e non solo, anche un numero di prodezze considerevoli. Non c'è dubbio, e comunque i 7 gol del Real Madrid ce ne sono almeno 3-4 che sono di grande fattura. Cioè, se tu li scorpori dalla partita e li guardi singolarmente, sono delle grandi cose. In effetti, quando guardiamo gli highlight delle partite o semplicemente i gol, possiamo notare che sono delle prodezze individuali che sono notevolissime. Credo che il gol di Boateng ieri sera, da un punto di vista anche solo della spregiudicatezza nel pensiero di voler fare quel controllo, devo anche dire che Boateng è un giocatore che a me piace molto da questo punto di vista, perché probabilmente non fa grandi pensieri prima delle giocate. Mi ricordo le cannonate che tirò nella partita di Lecce, ad esempio. È un giocatore che in questo momento fa veramente la differenza. Io devo anche dire che quando lui arrivò in Italia, è arrivato tra l'altro via Genova, e quindi non direttamente, non pensavo sinceramente che potesse avere un impatto così importante. Cioè, lo pensavo un discreto giocatore, cioè un giocatore da Genova, senza che si offenda. Difatti, una gemma assoluta che, insomma, da cui però mi sarei aspettato, questo non per fare il perfezionista ad ogni costo, mi sarei aspettato che lo gasasse di più questa prodezza assoluta. Invece, se pensi poi all'ultima mezz'ora, è quasi come se l'avesse scaricato, no? Da un punto di vista psicologico, perché dice, uno che ti combina una roba del genere, beh, poi, come dire, lievita, no? A livello mentale, e quindi te ne aspetti, non dico un'altra prodezza così, ma ti aspetti che da lì alla fine il protagonista sia lui, come dire. E invece è come se questa meraviglia l'avesse un tantino appagato. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli e prima appunto dei vostri interventi, vedo che siete molto numerosi oggi nel voler intervenire, vi lasciamo subito spazio. Non prima però, Fabio, di aver provato a proiettare con le squadre già qualificate e soprattutto quelle che hanno già vinto il girone, provare a proiettare un abbozzo di sorteggio, perché mi sembra che sia una di quelle edizioni in cui arrivare primi è sempre meglio, ma arrivare secondi però ti dà qualche buona possibilità di pesca, eh? Ma intanto diciamo che senza che Milan-Barsa debba sentirsi offeso, la vera notizia del giorno è il passaggio del turno della Poel. Bravissimo. Perché non era mai successo, perché questo è un successo di Platini, che però non deve dimenticare che ci sono in giro Lotte, l'Ulgalati, il Genk e tutto il resto. Sì. Noi non dobbiamo dimenticare che l'Apoel ha iniziato questa avventura ai primi di agosto, perdonami, a metà luglio ha iniziato dal secondo turno preliminare della Champions League, quindi ha fatto secondo, terzo turno più playoff, quindi ha fatto tre turni per poter entrare nella fase a gironi, quindi diciamo che l'ha presa un po' alla lontana ed è una parte non piccolissima della rivoluzione. Poi per carità, sarà una cosa sporadica, io non lo so, però comunque questa piccola bandierina e la Poel può anche vincere il girone, e a questo punto si innesta il discorso che stavi facendo tu, e a questo punto se la Poel vince il girone, arrivare a secondi può essere una gran fortuna. Sappiamo bene poi che anche l'anno scorso, quando l'Inter prese lo Schalke 04, saltarono dei tappi di champagne, poi bisogna vedere cosa succede in campo, e quindi in ogni caso l'Apoel è un avversario da prendere assolutamente. Per quanto riguarda le squadre che vincono il girone, considerando il Milan che è seconda, l'Inter è prima, il Milan può pescare malissimo, perché può prendere il Bayern di Monaco, perché può prendere il Real Madrid, ovviamente non può prendere l'Inter, ovviamente non può prendere il Barcellona, potrebbe andargli bene prendere l'Arsenal, io credo che possa essere una scelta migliore da questo punto di vista, se proprio di scelta vogliamo parlare, certo prendere l'Apoel sarebbe un grandissimo colpo, e poi bisogna vedere al girone C chi passa per primo tra Benfica, Manchester United e Basilea, perché anche se poi il Benfica non credo che non vincerà l'ultima giornata, dunque secondo me questo girone lo vince il Benfica, comunque non è ancora sicuro del primo posto. E poi bisogna vedere il gruppo E chi esce insieme al Bayer Leverkusen, se Chelsea o Valencia, che sono comunque squadre che a metà febbraio, fine febbraio, possono essere anche leggermente cresciute, quindi grandi incognite. Ripeto, c'è la pallina del nuore di Neon della Poel, che sarà quella più calda in tutti i sensi, sperando che invece la temperatura della pallina sia regolare, ovviamente. Tra un paio di settimane, Fabio, grazie. Volentieri, a presto. E insieme scopriremo nel frattempo se il Napoli avrà completato questo suo magnifico cammino nel girone di qualificazione, perché è vero che le imprese vere le ha già fatte, ma adesso manca l'ultima, però che apparentemente, ma anche tecnicamente, è la più accessibile, ma che comunque va ancora realizzata. Ancora qualche numero ricavato da ieri sera. Beh, per esempio i 43 falli commessi in Milan-Barcellona, a dimostrazione che non è stata affatto una partita, non dico amichevole perché non lo era, ma insomma non è stata una partita presa alla leggera in cui tra due qualificate c'era, cioè, si sono giocate il primo posto nel girone seriamente. 43 falli sono tanti, 25 fischiati contro il Milan e 18 contro il Barcellona. È la seconda partita più fallosa dell'intera stagione di Champions dopo Porto Apoel, mi fa notare sempre il solito maniaco dei numeri Fabio, Franco Piantarida. Dunque, molti messaggi in attesa di vostro in attesa perché siete già in molti collegati, però qualcuno è divertente. Allora, Mauro scrive che il colpo di Boateng gli ha ricordato uno di Redondo, sempre a San Siro con la maglia del Real, non per similitudine ma per genialità. Io devo dire che ieri sera non so perché, ma mi è tornato in mente Bergkamp, non il Bergkamp che abbiamo conosciuto con la maglia dell'Inter, ma il Bergkamp dell'Arsenal, che ogni tanto aveva di queste illuminazioni e ha segnato 3-4 gol nella sua carriera inglese, assolutamente la cineteca, come la cineteca e la prodezza di Boateng ieri sera. E poi altri stavo cercandoli, ma adesso li ritrovo. Intanto darei il primo spazio ad Alessandro, ha chiamato da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Dica. Una considerazione, ma sì, questo Barcellona che senza Iniesta, che è come Messi praticamente, no? Fondamentale. Quasi. Riesce a inserire questo Alcantara, questo Thiago, può tenere Pedrito in panchina, ma qui chi sono i titolari, chi non è titolare? A questo punto sono sul serio tutti campionissimi, sono così imbattibili, danno sempre quell'idea di sì, ti lascio pareggiare, poi faccio quel golletto in più. No, forse psicologicamente. No, ti lascio pareggiare, no, perché ti lascio pareggiare non credo proprio. Cioè che loro poi si sentano più forti, credo che sia legittimo, e non sono gli unici se per questo, forse loro sono quelli che lo possono pensare di più in questo momento. Lei ha dimenticato Piqué, perché stiamo parlando di un campione assoluto. Io non so perché ieri sera Piqué non abbia giocato. Secondo un ascoltatore, ho letto un messaggio prima, era per evitare un incrocio con Ibrahimovic, perché dire che si amino alla follia forse no. E mentre Guardiola è un gran signore, ma soprattutto Ibrahimovic lo vede dalla panchina, questi due sarebbero incrociati in campo. È una spiegazione possibile. Ma insomma, per dire che non erano soltanto quelli che lei ha citato, quelli che mancavano. Moreno scrive che in assoluto la prudenza che gli è piaciuta di più è il tocco di Seedorf sul primo gol, quello di Ibrahimovic, che è indubbiamente un assist delizioso. Direi però, Moreno, che il coefficiente di difficoltà rispetto a quello di Messi è un po' diverso, nel senso che Seedorf gli mette questa palla di esterno magnifica, c'è la spaccata di Puyol che non riesce proprio perché la traiettoria è perfetta, e anche lì c'è il contagiri, però è da più vicino. E c'è soltanto il birillo, come dire, il birillo Puyol da girare, no? Con la traiettoria, mentre quella di Messi ne aveva tre, doveva passare in mezzo a tre. Ripeto, coefficiente di difficoltà molto più alto, con tutto l'apprezzamento per quell'assist di Seedorf, intendiamoci. Massimo, Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per avermi fatto intervenire. Niente, io volevo, ieri sera ero a Milano a vedere la partita, partita bellissima, pubblico corretto, uno spettacolo davvero emozionante. E detto questo, però, volevo condividere magari una cosa che ho notato, e si può notare bene solo dallo stadio. Indubbiamente il Barcellona è una squadra molto forte, loro tengono palla, hanno attaccato molto bene, anche se in fase difensiva per me possono prendere gol abbastanza, non così, ecco, non in maniera così complessa. A me ha sorpreso un Milan messo in campo in un modo, secondo me, no, non del tutto moderno, con soprattutto in fase di non possesso palla, le punte non aiutano mai, e lo stesso Boateng fa fatica a rientrare, e ieri sera ha sofferto molto questa cosa, anche perché il centrocampo, il Milan era più lento, era sicuramente più in difficoltà contro un Barcellona che, se gli dai un metro, questi viaggiano veramente forte. Ecco. Insomma, io trovo che comunque rispetto a due mesi fa, rispetto alla partita d'andata, il Milan abbia fatto dei passi avanti notevoli. Tant'è vero che a Barcellona, non guardi il risultato, a Barcellona è finita 2-2, ma non c'era stata partita, letteralmente non c'era stata partita, se non i primi tre minuti col gol di Pato proprio al fischio d'inizio, e lo sbandamento accusato dal Barcellona in quei pochissimi minuti davvero. Poi la palla non l'ha vista mai. Ieri sera hanno subito un altro avvio un po' difficile, parlo del Milan, perché all'inizio il Barcellona può anche raddoppiare tranquillamente e può andare, una volta raggiunto, può anche andare sul 3-1 se non c'è un grande peccato d'egoismo di Villa che Fabregas penso gli abbia detto di tutto anche alla porta. Non dimentichi la traversa di Messi, l'altra palla scheggiata da Fabregas lì davanti. Tutto questo a fronte della enorme occasione fallita da Robinho, ma che è una rispetto alle altre. A me il Milan pare che abbia fatto dei passi avanti, ripeto, rispetto a quella partita. Solo che giocare contro questi qua, insomma, no, non è semplicissimo. Poi Andrea Milano scrive che fischiare un rigore come quello assegnato ieri sera a Barcellona è semplicemente ridicolo. Io trovo semplicemente ridicolo che in Italia non si fischino i rigori come quello di Pato domenica, anzi sabato a Firenze. Quello sì è ridicolo. Il rigore di ieri sera è un rigore che ci sta tranquillamente e con tanto di ammonizione, e quindi il Milan sarebbe rimasto in 10, visto che trattavasi di Aquilani e non di Nesta, come poi è successo per proteste. Marco, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, è sempre un piacere. Ma forse sono io troppo severo, però il Milan a cui faccio riferimento io, oltre a quello di Sacchi e quello di Ancelotti di un certo periodo, che è stato veramente sublime, ma è una, la mia sensazione è che questo Milan più di tanto, comunque, nonostante sia migliorato, non può dare, perché è troppo messo in campo per cercare il risultato e non con la convinzione di ottenerlo. Sinceramente ieri il Barcellona mi sembrava forse, senza il forse, meno forte di quello dell'andata, ma il Milan, come dire, ripartiva quando era in difficoltà, quando aveva preso il gol lo recuperava, però non ha mai dato la sensazione di crederci, e questo è un comune denominatore del Milan di Allegri. È una mia sensazione, sento il suo parere volentieri, grazie. Secondo me è una sua sensazione, che è dovuta agli organici delle due squadre, insomma, non è che possiamo stare a raccontarcela tanto. Il Milan è la miglior squadra italiana, a parer mio, dal punto di vista dell'organico, senza dubbi. Tra il Milan e il Barcellona, se ci mettiamo a esaminare i singoli o i reparti o cose di gente alla pari, ne troviamo pochina. Se poi pensiamo che il totem del Milan è Ibrahimovic, che del Barcellona è uno scarto, va bene, anche per altre ragioni, non soltanto tecniche o tattiche evidentemente, ma insomma io partirei da quel dato lì, e poi gli altri ragionamenti si fanno partendo da questo dato. Rispondo a domande di alcuni ascoltatori con l'aiuto sempre di Franco Piattanida. L'Apoel sta per Atletico Football Club dei Greci di Nicosia. È la metà greca, rappresenta la metà greca della città e dell'isola, opposta a quella turca. Ha un'academy da cui ha sfornato talenti, l'ultimo è Karalambides, che è una mezza punta di talento. Squadra melting pot classica, perché i ciprioti sono 12, ma poi ci sono brasiliani, portoghesi, argentini, bosniaco, un turco, un greco, un macedone, un belga, un paraguaiano, e comunque in ogni caso poi lo chiamano il piccolo Barcellona per tante ragioni, insomma oggi il piccolo Barcellona mi sembra che comincia a essere un po' abusato, no? come modello di riferimento. In ogni caso l'Apoel è la vera sorpresa di questa fase a gironi della Champions League. Torniamo da chi è già collegato con noi, Maurizio Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie dottor Canadini per avermi chiamato. Volevo chiederle una cosa. A prescindere, vabbè, fate la partita di ieri, molto bella, mi è piaciuta. Il Milan effettivamente ha ragione Allegri, come autostima certamente ne acquisterà, soprattutto giocatori come Abate, questa gente qua. Però ho notato una cosa, no? Cioè, voi la sua opinione, per sapere se è giusto o no. Io trovo che Pato, essendo un grandissimo fuoriclasse, un talento naturale, mi dà l'impressione che non si alleni con l'intensità adeguata. Cioè, Pato secondo me dovrebbe prendere esempio da gente come Inzaghi, come Seedorf, cioè anche come Messi. A me mi dà l'impressione di Messi, grandissimo, talentuoso e tutto, però mi dà l'impressione della serietà dell'allenamento. A me mi dà l'impressione che Pato non metta l'intensità adeguata per fare quel salto di qualità. Non lo so, ma non glielo so dire, bisognerebbe vedere gli allenamenti. Nel giornalismo sportivo di un tempo si faceva, io l'ho fatto per tanti anni e avrei potuto risponderle. Adesso sinceramente non le posso rispondere. Al massimo posso darle una frenatina sulle iperboli. Lei ha detto che Pato è un grandissimo fuoriclasse. Secondo me non è né un grandissimo né un fuoriclasse, almeno per il momento. Quindi vede che ci sono già due esagerazioni nel suo modo di catalogare Pato, che è un grande giocatore, questo sì, è una grande promessa potenziale, ha dei problemi fisici oggettivi, perché tutte queste ricadute muscolari, insomma, qualche problema lo integrano, lo comportano, ma grandissimo e fuori classe, cioè andai proprio molto, ma molto più piano. Aldo, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Grazie per l'attenzione. La causa sarà legata ai miei 50 anni, ma la mia passione per il calcio è legata all'estetica, alla bellezza. Non le sembra, Garanzini, che il Barcellona stia costringendo anche le squadre italiane, nonostante le televisioni, nonostante i videogiochi, ad un calcio estetico? Cioè, non le sembra che anche un Boateng, è un fuoriclasse, quindi ci mancherebbe, ma che Messi, il Barcellona, non stiano ritornando, dico ritornare perché in fondo c'è una ciclicità anche nella bellezza, che si ritorni finalmente ad un calcio bello, al di là dei valori tattici, tecnici e soprattutto dell'esagerazione televisiva del calcio? Non si ritorna alla bellezza? Sono un utopista? Ma guardi Aldo, io ho ricevuto stamattina una mail, ne ho ricevute tante, ma il suo intervento mi fa venire in mente il signor Riccardo Urbani, che la pensa esattamente in maniera speculare alla sua. Perché scrive: voglio andare controcorrente, scandalizzare l'opinione comune con un'idea dissenziente, qui ci vorrebbe un rullo di tamburo evidentemente, odio il calcio all'italiana, quel gioco furbo fatto di difese bloccate, veloci contropiedi che saltano regolamenti del centrocampo, verticalizzazioni improvvise, possesso palla nulla e centravanti tecnicamente scarsi, questo tipo di football mi annoia, è brutto da vedere, grezzo, quasi uno specchio di italica furbizia, e questo è un ritratto di come ha giocato il Napoli contro il Manchester City, sempre secondo il signor Riccardo Urbani. Vede quindi che il modo di intendere il calcio, il modo di valutarlo, di giudicarlo, ma soprattutto di farselo piacere o non piacere, è vario, ecco, è molto vario, ma come è giusto in fondo che sia, e come è sempre stato, tra l'altro, perché queste sono davvero le questioni su cui le questioni che non si risolveranno mai, no? Speriamo che se ne risolvano di più serie, intendiamoci, ma insomma nel piccolo. Per esempio, un'altra meme, insomma, visto che qui siamo arrivati, Antonio Sardegno scrive invece: la bella vittoria del Napoli di ieri mi pone l'annoso quesito sulla bellezza del calcio. Da un paio d'anni a questa parte il Barcellona ci delizia con giocate meravigliose, inventate da interpreti unici, però io, ammirando più volte il loro calcio, mi faccio venire in mente il critico gastronomico che davanti al piatto sofisticato e succulento a un certo punto esclama: buono, buonissimo, ma è abbastanza, mentre il calcio del Napoli è il buon panino con la mortadella che quando hai fame ti sazia con immensa soddisfazione. Sono scampoli, no? Giusto per dimostrare quanto varia sia il panorama di, ma quanto vari siano gli indici di gradimento, e tutti rispettabili a parer mio. Cristiano Milano, buongiorno. Cristiano, grazie, dica. Volevo solo esprimere un mio disappunto sulla formazione di Allegri, perché ha schierato Van Bommel, che è un periodo che non è molto lucido, non è molto reattivo, lasciando fuori un Cirino che è molto più veloce, con il Barcellona che è una squadra molto veloce, che riparte in contropiede. Io avrei preferito vedere un Nocerino, ecco. Io invece penso che la scelta di Van Bommel fosse inizialmente saggia, perché le caratteristiche di Nocerino e di Van Bommel sono profondamente diverse, ma non solo di velocità, cioè del parametro che usa lei, ma di piazzamento, di fetta di campo occupata, di capacità di contrastare, di leggere l'azione altrui, poi anche di conoscenza del Barcellona, un Barcellona diverso e più modesto, ma insomma per averci giocato, quindi sulla carta secondo me Van Bommel ci stava, e come, poi dalla carta al campo ci sono sempre alcune differenze, sempre tenendo conto, secondo me, non dimenticandolo mai, che non si fa una gran fatica a far brutta figura contro il Barcellona, no? soprattutto giocando in mezzo al campo, nel senso che balli, vai a vuoto in continuazione e questi ti prosciugano dal punto di vista fisico prima e mentale poi. Riccardo, provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia impressione è che il Barcellona giochi un po' a memoria, nel senso che è quasi impossibile per chi ha la palla poter vedere contemporaneamente il compagno e lanciarla in profondità. Loro probabilmente la buttano sapendo che comunque qualcuno arriva. Nel secondo tempo, sul 3-2 per il Barcellona, c'è stato un momento in cui Pato era in linea in mezzo a due difensori del Barcellona e a destra non ricordo se era Abate o Aquilani con la palla. Ecco, loro, ma è normale penso che sia così, perdi quel momento buono in cui ti accorgi del tuo compagno e lo lanci. Inevitabilmente a volte vai in fuorigioco l'attaccante, certo, oppure ti porta una palla. Ecco, io sono convinto che in quel momento ci fosse stato il Barcellona, avrebbe buttato la palla in profondità a prescindere. Cioè mi dà l'idea che loro giocano senza guardare il compagno. Ecco, loro sanno dove mettere la palla, sanno che in quel momento qualcuno arriverà. Perché se in quel momento lì Abate o lo Aquilani, no, ho capito Riccardo, è chiaro il concetto. Dobbiamo, grazie del suo intervento. Guadagniamo tempo, il 24 novembre di Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 novembre 1935. A Milano, allo stadio Civico Arena, la nazionale di pozzo campione del mondo in carica e l'Ungheria pareggiano 2-2, con reti di Colaussi e Giovanni Ferrari e doppietta di Sarosi per i magiari. Il risultato in realtà è un'impresa, perché gli azzurri giocano di fatto un tempo in 9 per gli infortuni di Meazza e Bertolini. Il pareggio è sufficiente all'Italia per conquistare per la seconda volta la Coppa Internazionale e aggiudicarsi così definitivamente il trofeo. Molto bene, torniamo con Daniele dalla provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno a lei dottore. Dica. Io volevo fare un intervento molto meno tecnico dell'ascoltatore che mi ha preceduto. Volevo precisare solo due cose. Io sono un tifoso interista e però mi è sembrato ieri sera nel rivedere il rigore generosamente assegnato al Barcellona che questo rigore non ci fosse, perché sono rigori che nelle aree italiane tutte le domeniche ce ne sarebbero 22. Però la interrompo un istante, nelle aree italiane lei ha detto bene, stamattina Paolo Casarin, che di arbitraggi più o meno se ne intende, fa notare sul Corriere della Sera proprio questa anomalia, che è tornando in Europa che ci accorgiamo che in Italia ormai si fischia troppo poco e si puniscono troppo poco i falli, le trattenute e tutto il resto. Per i parametri europei, quello di ieri sera è calcio di rigore, non ci sono tante storie. Probabile. Noi siamo tifosi italiani e siamo abituati probabilmente a uno spettacolo diverso, a volte anche indecoroso. Vabbè, a parte questa che è una precisazione, è un'opinione mia personale, ma come tutti i fischi arbitrali può essere soggettiva anche in questo caso. Come ripeto, da tifoso interista vorrei rivalutare la prestazione che ha fatto l'Inter un anno e 7 mesi fa contro il Barcellona, contro praticamente quasi lo stesso Barcellona che ha surclassato vincendo 3-1, insomma. Anche se capisco che insomma da quel che mi sembra di capire lei è un anti-murignano, insomma. No, ma al di là di quello, surclassato, io capisco che i ricordi, soprattutto i ricordi gloriosi, felici e rari, me lo lasci dire, capisco che siano i più pregiati da coltivare, no, nella propria memoria, ma surclassato, ragazzi, ci vuole un discreto fegato a ricordare quella partita come l'Inter che surclassa il Barcellona. Io ero allo stadio e devo dirle che perdere 1-0 dopo un quarto d'ora col Barcellona, questo non c'è dubbio, un'impresa sì, ci mancherebbe altro, fu una grande impresa dell'Inter, ma da lì ad averli surclassati, Daniele, facciamo così, se io devo farmi raccontare una partita non me la faccio raccontare da lei, non si offenda ovviamente, non c'è nulla di personale, ma come la sensazione che l'obiettività con la O maiuscola stia magari da qualche altra parte. Carlo ha chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica. Io volevo solo fare una precisazione, siccome ho visto la partita ieri, ho visto che secondo me Rubinho ha giocato abbastanza bene, però invece dopo Allegri l'ha tolto per mettere Pato. Secondo me questa Rubinho ha giocato abbastanza bene. Sì, ha procurato anche un rigore che però ovviamente l'arbitro non ha dato. Perché c'è stata la congiura ieri sera. No, non c'è stata la congiura, no. Però vedendo il rigore che ha dato al Barcellona potrebbe. Quindi c'è stata la congiura. Ma se ha negato un rigore al Milan e ne ha regalato uno al Barcellona, più congiura è così, no? Sarebbe anche stata una disattenzione, No, Carlo, non è una disattenzione. È l'errore mio che quando intervengono 8-10 ascoltatori di fila e va tutto bene, secondo me bisogna passare alle mail o cose. Questa è una piccola cabala mia ed è un errore che ogni tanto commetto, perché devo dire che sugli ultimi due interventi qualcosina da ridire sinceramente l'avrei. Marco dalla provincia della Spezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, intanto, complimenti per la trasmissione e per la sua professionalità. Sì. Però io... Calciopoli? No, perché sentivo una lenta deriva, no? Allora temevo di arrivarci. La formazione del Cioè, ammettendo che in questo momento il Barcellona è superiore e ieri sera con gli uomini in campo il Milan ha dato il massimo e meritava il pareggio, però secondo me sono d'accordo con la persona che è intervenuta prima, in cui Allegri ha un po' sbagliato la formazione, un pochettino. Io vedevo bene Nocerino al posto di Van Bommel, perché in questo momento Van Bommel ha fatto un campionato veramente disastroso, mm-hmm. e Nocerino, anche se ha altre qualità, poteva in qualche maniera sostituirlo. E anche Pato dall'inizio della partita avrei inserito. Pato aveva fatto il primo gol, sorprendendo completamente il Barcellona. Non è che è sempre festa, non è che perché il Barcellona si è fatto prendere di sorpresa al Camp Nou ieri sera al primo minuto Pato gli mette dentro un'altra pera come quella, queste cose non è detto che si debbano ripetere. Io stimo molto Nocerino, credo che sia uno degli uomini migliori come rendimento, come qualità e come rendimento che il Milan ha schierato fino a qui quest'anno. Certamente avrebbe fatto la sua figura, e come anche ieri sera Allegri l'ha vista diversamente, cercando un diverso tipo di impostazione a metà campo, insomma, e sacrificando Nocerino per questo libero davanti, per questo mediano che, insomma, avendo un sacco di senso della posizione, di senso dell'orientamento anche, ed esperienza internazionale, secondo me doveva servire a chiudere non tutte le linee di passaggio a Barcellona, perché chiudere le linee di passaggio a Barcellona bisogna bloccare i semafori di però insomma provare perlomeno a chiuderne il maggior numero possibile. Non c'è riuscito, ma non è che sia semplicissimo riuscirci. Nocerino, che non è un centrocampista centrale, avrebbe evidentemente assunto un'altra posizione e magari avrebbe portato al Milan un contributo superiore, non lo discuto, ma il ragionamento di Allegri di partenza però mi sembrava quello corretto, insomma, quello di uno che fa l'allenatore. Stefano Udine, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Dica. Cioè, io stasera allo stadio volevo una precisazione, sono milanista da sempre, perciò bisogna essere certe volte nella vita anche degli sportivi, questi superiori sono più forti, sono più bravi, più organizzati in tutte le zone del campo. Poi a un certo livello credo che i giocatori che hanno una certa età devono comunque capire che è il momento di dare un taglio. Van Bommel, l'ombra di se stesso, Nesta a un certo punto ha dovuto coricarsi perché non ce la faceva più. Seedorf, non so se qualcuno l'ha visto o come. No, sul primo gol Seedorf l'ho visto e nel primo tempo l'ho visto e come, sai, per quello. Poi nel secondo tempo l'ho visto meno, però siamo sempre lì. Lei ha visto tanto Boateng nel secondo tempo? Sì, ha visto quella gemma, no? Quel gol fenomenale, ma considerata l'età di Boateng e l'età di Seedorf, è sicuro di aver visto di più Boateng nell'ultima mezz'ora di quanto ha visto Seedorf? Ma per dire, Pato, quello che prima diceva, o forse era lei, non ricordo più, che Pato doveva giocare al primo minuto, siamo sicuri che Pato dovesse giocare al primo minuto anche nel secondo tempo? Perché visto come l'ha giocato, la domanda è, ma gliel'ha ordinato il medico di far entrare Pato nel secondo tempo? Altro che metterlo fin dall'inizio. Però siamo sempre lì, siamo sempre alla formazione che è facile da fare dopo, a partita finita. Io non credo che, penso invece che nello schieramento iniziale, cioè dovendo deciderla Allegri la formazione prima della partita e non il pomeriggio dopo come sto sentendo qua, penso che avesse fatto le scelte corrette che doveva fare. Non siamo lontani dalla conclusione, sento in effetti che Pietro Lacorte alla regia ha cominciato a inserire con molta delicatezza e molto garbo, per la verità, questo sottofondo musicale, che significa che il tempo è scaduto. Grazie allora a lui, a Pietro Lacorte in regia, a Franco Piantanini in redazione, a tutti voi che siete intervenuti, buon pomeriggio, vi lascio al giornale radio.